Questo libro si ispira liberamente a Giovanni I Rocca, protagonista dell'insurrezione di Santa Libera del 1946, già comandante partigiano della Stella Rossa, poi 9ª divisione d'assalto Garibaldi Alarico in merito. Nasco il 21 gennaio del 1921. Si può nascere in un giorno differente e nulla magari cambia, ma nasco quel giorno. Per caso, senza merito e senza colpa. Possiamo diventare padroni della fine, ma all'inizio siamo nient'altro che uno sputo del caso. Quando nasco, mio padre non c'è. È occupato al congresso di Livorno. Emette anche lui i primi vagiti, ma di un'altra nascita, quella del Partito Comunista, di un giorno che dura 70 anni. Invischiato in un giorno lungo più di 20 anni, il padre prende la strada, prima della galera, seconda dell'esilio, ultima della guerra di Spagna. Non mi dice lì come è morto, né mi racconta mai il vissuto. Mio padre io lo ricordo per i ricordi altrui, per le foto, per le lettere. Conosco tutto della sua storia, cioè non so nulla di lui. Quando mio padre viene ucciso dai franchisti, sono prossimo all'età del militare. Prendo conoscenza della sua morte il 18 dicembre del 1938, quel giorno che per me finisce solo quando se ne va la vita. Quel giorno, maledettamente lungo, giuro che un figlio mai per nessuna ragione può combattere dalla parte dell'assassino del padre. Ci sono due episodi della vita che mi tornano sempre in mente quando cerco di vedere una lucina che mi guidi nel futuro. Il primo è anche il germoglio della mia rivolta contro il fascismo. 1939, Casa Vittorio di Cannelli. Quattro ragazzi, me compreso, che frequentano la palestra di box del Biagin, rifiutano di iscriversi alla milizia volontaria premilitare. Sono determinati a non indossare la camicia nera. Nel mio caso, il rifiuto viscerale di quella camicia funeraria dipende dall'insopportabile spocchia dei fascisti e dai trascorsi familiari. Gli altri tre non hanno ancora ascendenze comuniste, ma sono più determinati di me a combattere la Boria Vittoria. Il federale non è abituato a simili rifiuti. Urla comanda senza risultato di salutare fascistamente. Guarda la foto del duce come per chiedere aiuto. Agile frustino, si impettisce tacco contro tacco degli stivali. Rumoreggia per spaventarci. Infine si decide a fare qualcosa. Strappa la camicia bianca a Vittorio, uno dei miei amici, e gliene getta addosso un'altra, nera. Indossala! Gli grida. Crede di aver compiuto un'eroica azione, ma in cambio, anziché obbedienza, riceve un pugno ben assestato sul grugno. Si ritrova tosto come un tronco appena battuto a terra. Intervengono gli altri fascisti, ma a calci e pugni non c'è scampo per loro. Il più furbo e il più caghetta dei lucofili evitano di gettarsi nella mischia. Corrono dai carabinieri, che armi in mano arrivano e ci arrestano. Pretendono di portarci in prigione, ma si convincono a desistere grazie al signor Mazzuccato. «Sono bravi ragazzi», dice loro. «Intanto li portiamo in galera», rispondono i carabinieri. Ma quando gli avvisano che i genitori, parenti e amici, cioè mezzo paese, sono già pronti armati di fucili per venire a liberarci, intuiscono che bravi ragazzi no, tira brutt'aria per loro. Il secondo episodio che mi torna sempre in mente è ben più tragico. Mestre, settembre 1943, ritorno dalla Jugoslavia. Dopo i combattimenti a fianco dei titini, grazie al loro consenso e al loro aiuto, tento di tornare a casa. Desidero combattere per la mia terra. L'organizzazione delle staffette è perfetta. Mi accompagnano per brevi tratti e mi affidano ad altre compagne con discrezione e con eleganza. Rientrato in Italia mi fanno salire su un treno. Su un vagone centrale mi attende una partigiana che senza aprire bocca solleva la lunga gonna. Mi fa cenno di entrare. Rimango nascosto là sotto qualche ora. La pattuglia di SS-ini che controlla il treno attraversa il corridoio si ferma sulla porta del compartimento. Apprezza la bellezza della mia protettrice. Parlotta per lunghi minuti con lei. Io, pronto con le mani sul mitra, faccio la più copiosa sudata della vita. Poi tira dritto. Faccio un lungo sospiro. Lei mi stringe due volte la testa con le cosce, forse per dirmi va tutto bene, o forse per invitarmi a silenziare il respiro. Mi sento un cagnolino felice. Peccato che non possa abbaiare, guaire, leccare, mordicchiare e strofinare. Si arriva in una stazione. Mi prende la testa e mi spinge delicatamente fuori dal suo gonnone. Mi fa capire che devo scendere. Lei rimane sul treno. Vorrei chiederle come si chiama, quanti anni ha, che fa nella vita, come posso ringraziarla. Mi piacerebbe domandargli di tutto, ma il massimo che posso fare è guardarla per un attimo avaro. Stampare il suo viso nella mia memoria e sperare che un giorno, la vita, mi conceda la gioia di incontrarla di nuovo. Da sola, con il fidanzato, il marito, i figli, i suoi compagni, non ha importanza. Ma mi basta sapere di poterla rivedere ancora. Chiudo gli occhi per trattenere la sua immagine, ruoto lentamente la testa e mi dirigo verso l'uscita. Sono nella stazione di Mestre. Due ragazze mai viste mi salutano. Agitano le mani, sollevate a una decina di metri di distanza. Si avvicinano. La più alta mi abbraccia per prima. «Come stai?» mi chiede. «Bene, tu?» «Benissimo». Mi abbraccia anche l'altra, che non mi chiede come stai. Sta per arrivare un treno di prigionieri diretti in Germania. Stiamo preparando l'assalto. Puoi decidere di partecipare all'azione o di proseguire. Sono totalmente mambolato. Dopo lo shock sotto gonna, non sono abbastanza sveglio per riceverne altre. Meccanicamente rispondo: «Sto benissimo, e tu?» «D'accordo, allora lei ti dirà cosa fare». Mi conducono in un magazzino appena fuori dalla stazione. Controlliamo le armi. Il convoglio arriva fra mezz'ora. Dobbiamo stare nascosti finché non ci viene dato il segnale dell'arrivo in stazione. In attesa dell'attacco si preparano pacchi di generi alimentari per i prigionieri. Chiedo da quanto tempo si trovano su quei convogli. «Da una settimana». Consiglio di lasciar perdere i viveri. Ciò che serve dopo tanti giorni a persone chiuse come bestie in quei vagoni è l'acqua, tanta acqua, solo acqua. Purtroppo è l'unica cosa a cui, preparando l'azione, non pensano. Una partigiana esce da sola, si reca a ispezionare i punti d'acqua della stazione e a procurare quanti più recipienti possibile. Entra il comandante dell'operazione per dettagliare i compiti di ciascuno. A me e a un altro partigiano tocca risaltare sul primo vagone, aprire i compartimenti e far uscire i prigionieri. Poi a seguire dobbiamo passare sugli altri vagoni. Due altri compagni iniziano lo stesso lavoro dell'ultimo vagone. A terra le due ragazze di prima hanno il compito di disarmare i soldati che scendono dal treno. Altri quattro partigiani controllano l'operazione dagli ingressi della stazione, pronti a intervenire. Fuori sono disponibili vestiti e scarpe da distribuire ai prigionieri per renderli possibile di mimetizzarsi della popolazione. Dobbiamo fare in fretta, molto in fretta. Dato l'allarme della caserma, impiegherebbero 10 minuti a scemare verso di noi i soldati di Hitler. Il tempo massimo dell'operazione è inchiodato ai 9 minuti. Il campanello già annuncia il treno di arrivo. Mancano 4 minuti. Il tempo di guardare negli occhi, di stampare nella mente tutti i miei compagni d'avventura e si va piano, piano, mitra sotto, l'impermeabile verso la stazione. Ci troviamo già sul binario 4 quando vediamo il treno comparire lontano. Brigamente ci scorre davanti e si ferma. Quando si apre la porta del primo vagone non attendiamo che scenda qualcuno. Saliamo su noi. Con il mitra, sotto ancora l'impermeabile, facciamo il solletico al ferroviere. In mezzo al vagone notiamo solo due soldati. Le informazioni possedute dai partigiani sono per fortuna attendibili. I nazisti non si aspettano ancora attacchi del genere. Si sentono sicuri. I treni non viaggiano con scorte impossibili da affrontare. Adesso puntiamo le armi, disarmiamo i croce uncinati, ci facciamo consegnare le chiavi e apriamo in fretta tutti i vagoni e i compartimenti. Lo stesso fanno dall'ultimo vagone. Con loro ci incontriamo a metà treno, dopo 4-5 minuti. Chiudiamo i soldati già disarmati in un vagone. Adesso torniamo indietro, nelle due direzioni, urlando fuori, fuori. Siamo qui per liberarvi, siamo partigiani, fuori, fuori, in fretta, siete liberi, fuori! Urliamo disperati. I nostri occhi e le nostre menti non possono credere alle terribili scene che incombono lì davanti. Di tutti i prigionieri stipati là dentro, dopo i ripetuti inviti e tentativi di sollevarli, di spingerli, di strattonarli, cominciamo non più di 20 persone a scendere. Sono tutti smunti e maciati, si reggono in piedi a fatica, barcollano come una truppa di luridi cenci privi di carni dentro. Hanno le mani rovinate e le unghie totalmente consumate a furia di raspare i vagoni dall'interno. Ci guardano e ci seguono inebetiti, smozzicando qualche parola. Uno cade, lo aiuto a rialzarsi. È come sollevare rami secchi incapaci di stare attaccati al tronco della vita. Lo trascino all'esterno, alla stessa consistenza di un vestito vuoto. Mi ricorda lo spaventapasseri che mi fanno trascinare per i campi da bambino. Riprendo a urlare: «Fuori, fuori!» Ma il tempo sta per scadere. In un ultimo disperato tentativo corriamo ancora tra i vagoni. A parte i 20 già fuori, nessuno più scende. Rimangono assiepati l'uno contro l'altro, all'interno, occhi aperti e spenti. Sono inerti. Sembrano tutti inebetiti, pazzi o morti, completamente incapaci di reagire a qualsiasi sollecitazione. In questa situazione non possiamo fare di più. Siamo in ritardo. Lulli, comandante dell'operazione, continua a sgolarsi. Via, viva! Arrivano i rinforzi nazisti con i carri armati! Via, via! Scendiamo dal treno. Sentiamo già tum tum a ripetizione. La reazione nazista è rabbiosa. Già prima di entrare in stazione sparano in tutte le direzioni, per fortuna la cieca. Fuggiamo rapidamente, lasciando i prigionieri al loro orrendo destino. Riusciamo a sganciarci. Ci nascondiamo nel magazzino servito come base per l'operazione. Dopo pochi minuti arrivano il comandante e gli altri partigiani rimasti fino all'ultima stazione per coprirci la fuga. Luglio è felice ma furente. Sorride dentro di sé per la riuscita dell'operazione, ma ci rivolge frasi che preferibile non trascrivere. Ce l'ha soprattutto con me. Mi prende per il bavero dell'impermeabile, al naso a un centimetro dal mio. Se per fare la guerra partigiana bastasse dell'ottimo fegato, tutte le oche combatterebbero con noi. Dimostri di avere grande coraggio, ma se mantieni il cervello di una gallina muori presto. I tempi di un'operazione militare devono essere più perfetti di un orologio di precisione. Alla prossima occasione, se ritardi un secondo, ti abbandono lì ad accogliere gli assassini a caffè e biscotti. Poi mi lascia il bavero e mi abbraccia. Ci abbracciamo tutti prima di salutarci. Li fisso con sguardo fotografico. L'impressione in quell'angolo della mente dove le immagini rimangono indelebili nonostante il tempo malgrado la vita. Spero intensamente di avere la gioia di incontrarli ancora. Dopo tanto girovagare, dopo 20 giorni rullate a combattere e a fuggire, vedi l'umile casa dove si nasce. Annusi il rifugio, la tana del padre. Attendi di rientrare in quella dimora tranquillo, sicuro, protetto, come nell'utero della madre. Ma prima di varcare la soglia qualcuno ti avvisa. Tornare non è possibile. I fascisti ti cercano. Sono allo sbando, ma non si dimenticano di te. Ti senti finalmente a casa, ma la tua casa non è più una dimora. Ci abitano il pericolo di essere arrestati dai fascisti, il timore di essere obbligati a combattere per loro, la paura di essere uccisi. Il fascismo trasforma le case in dimore del terrore, i luoghi della rappresaglia dell'agguato della guerra. Dormirci è un rischio troppo alto. Mi tocca passare la notte in una grotta, vedere gli amici e i parenti di nascosto. Tocca nascondermi per bene, per rendere visibile al meglio la resistenza che inizia a organizzarsi. Così succede il 27 settembre del 1943, dopo 20 giorni dall'armistizio. In quei primi 20 giorni, i titini mi invitano a scegliere combattere contro i nazisti o tornare a casa. Ma adesso che sono arrivato a Canelli, le due prospettive non risultano contrarie tra di loro antagoniste. Sono anzi il massimo della coerenza. Se è semplice tornare a casa, è impossibile non rimane e conciliare gli opposti. Tornare a casa e combattere contro i nazisti. Tornare a casa per combattere i fascisti. Il 28 di settembre 1943 comincio a organizzare la formazione partigiana Stella Rossa, che l'anno successivo confluisce, con qualche ribollir di pancia, nella divisione Garibaldi. Non sono il primo a formare bande partigiane. Nella mia terra, tra Asti, Cuneo e Alessandria, sono già attivi diversi gruppi. Primo risveglio. Il 26 di aprile del 1945, giovedì, mi sveglio. Prima volta nella vita avverto una stanchezza superiore a quella che esige il sonno per trionfare. Eppure raramente mi capita negli ultimi anni, dormo tante ore, troppe forse, in un letto comodo, avvolto da lenzuola, stirate, troneggiato da morbidi guanciali. Il 26 aprile del 1945 mi sveglio. Devo allontanare da me il sospetto che qualcosa possa andare storto. Sento il bisogno di levigare qualche ruvidezza di carattere. Comincio dalla barba. Veniamo uno dopo l'altro purati, ma non ci diamo sconfitti. Cominciamo a sentirci, a vederci e a coordinarci. Quando il 10 di maggio del 1945 ci viene ingiunto di consegnare le armi, siamo in molti a sotterrarle, a nasconderle in attesa di mostrarle ancora. Non tutti, occorre dirlo, le tengono per nobili motivi. C'è chi le accumula per vendere, non importa chi. Dopo il 10 maggio 1945, la smobilitazione, la consegna, parziale, molto parziale, delle armi, l'epurazione a danno dei partigiani, i vecchi padroni che diventano nuovi padroni, qualche altra novità ci amareggia. Il comunista, come ogni altro partito antifascista, ha bisogno di dirigenti per divenire un partito di massa. I pochi che ha sono reduci dall'estero o dal confino. Conoscono la realtà che devono dirigere, quanto il maiale, il prosciutto scaturito dalla sua carne. Sanno tutto della brodaglia ingurgitata per fedeltà al padrone, sono più preoccupati di obbedire al PCUS che di ricostruire il PC. Tra i nuovi dirigenti, naturale si preferisce nominare i pronti a obbedire i facili, a mettersi il prosciutto sugli occhi. Se occorre, non vedere realtà che andano tenute nella cantina al buio del vero. Che i mussoliniani convinti fino a ieri non ha importanza, che si comportino come canaglie neanche. Ne vengono nominati alcuni che mai penso possano divenire comunisti. Non lo sono. Fino al giorno prima si dichiaravano fascisti, ma forse neanche il tempo del duce fascisti lo sono. Si tratta semplicemente di uomini abbarbicati al comando, che pur di dirigere qualcosa si infilerebbero anche nel pertugio più infido del potere. Diventerebbero volentieri indemoniati se il potere andasse di Satana. Non siamo molto contenti di essere diretti dal fiorfiore dei fino a ieri repubblichini. Mentre alcuni fascisti andano al potere, anche nel nostro partito molti compagni alla guida della lotta partigiana, sulle montagne e nella città, non litigando tra di loro all'estero, vengono emarginati. Alcuni di loro muoiono di mano scura. Le riunioni di partito vengono convocate in orari per buontemponi, non per gente che all'alba deve sollevare le chiappe dal letto per lavorare i campi o recarsi in fabbrica. Il clima nel partito a volte sembra quello di un tribunale. Quando si osa discutere le direttive piombate dalla direzione, arriva presto qualcuno che usa termini da purghe staliniane, deviazionista, piccolo borghese, trotskista, bordighista, opportunista, oggettivamente fascista. Secondo risveglio. Il 25 novembre del 1945, domenica, dormo bene, ma mi alzo molto male. Il secondo risveglio, dopo 7 mesi dal primo, è molto più doloroso. Col primo risveglio si può pensare che io abbia le allucinazioni, che veda nero dove invece bianco, che a colpi d'accetta mi trasformi in una sola notte da sempiterno ottimista in pessimista assoluto. Col secondo risveglio bisogna essere ipnotizzati da qualche balzana linea politica di partito per non vedere la tempesta restauratrice che s'abbatte rapida sull'Italia. Il secondo risveglio avviene il giorno dopo che i ministri della Democrazia Cristiana salutano il governo Parri, già spernacchiato dal PLI, Partito Liberale Italiano. Al governo, Parri che zoppica dalla formazione, non rimane che stramazzare sottoterra morto. Termina così la breve esperienza dell'unico governo della Resistenza. Da quel 24 novembre, gli ideali partigiani vengono rapidamente esclusi dal paese. La Resistenza viene ammuffita nelle piazze della retorica e dei gagliardetti. La Resistenza, vera, continua a essere celebrata, ma ogni volta che si evoca a me, non credente, par di vedere tutti gli atei del mondo mostrare predilegio nelle loro manifestazioni la croce di Cristo. Giorno dell'amnistia di Togliatti, 22 giugno 1946, sabato. Se la caduta di Parri somiglia alla seduta del Gran Consiglio del Fascismo, che licenzia Mussolini, l'amnistia di Togliatti è paro paro l'8 settembre della Resistenza. I comunisti, i socialisti e quel che rimane degli azionisti gettano la spugna, accettano l'armistizio, si arrendono senza condizioni, consegnano il paese nelle mani della Democrazia Cristiana per chissà quanti secoli. L'amnistia, semmai, deve arrivare per i partigiani. Dopo la liberazione finita, la breve parentesi dei tribunali della Resistenza, i giudici fascisti tornano sui loro scranni. Loro capiscono come stanno veramente le cose. Dal loro zelante lavoro risulta senza ombra di dubbio che i partigiani hanno commesso solo reati comuni, dunque andranno arrestati. I fascisti, a guardar bene, hanno commesso solo reati politici, naturale, andranno liberati. Un bel pasticcio, a cui il nostro grande capo Palmiro Togliatti, ministro di Grazia e di Giustizia, nel primo governo dei Gasperi, dovrebbe porre rimedio. E invece se ne arriva con la doccia gelata dell'amnistia, formalmente equiparata che i fascisti di piccolo calibro debbano tornare liberi, nessuno lo discute. Siamo i primi durante la Resistenza a liberare tutti i soldati di Salò e le mezze tacche del regime che catturiamo. Ricordo che per quella nostra attitudine di mandare a casa liberi tutti quelli sventurati che per fame, per ideologia spicciola, per senso del dovere verso lo Stato, perché così sono tutti, si dicono, fascisti, sono spesso messo in guardia. Un paio di volte devo spiegare le mie ragioni anche a Cesare Pavese. Lui mi dice: è pericoloso, stai attento, una volta liberi tornano a fare le spie, meglio essere più cauti. Hai ragione, ma dobbiamo convivere con loro dopo la liberazione. Questi sono poveracci, non sono pericolosi. Meglio averli con noi che contro di noi. Dobbiamo essere di burro con la soldataglia, inflessibile con i responsabili del regime. D'accordo, comandante, ma stai attento. Per la clemenza hai sempre tempo. Un po' di penitenza non fa mai male. Dopo 23 anni di regime, si trovano sotto accusa solo 3.588 fascisti. Non ci aspettiamo neanche, e non lo vogliamo, che siano uccisi o che passino la loro vita in galera. Un po' di penitenza, però, come consiglia Pavese, è necessaria, e che almeno abbiano l'interdizione a vita di governare la cosa pubblica ci sembra la condizione minima di decoro. Il buio del giorno. La notte non è più. È mattino, ma non spunta il giorno. Il buio imperversa. La luce, altrove trattenuta, non compare. Si attende, ma non arriva. Lea mi invita a non guardare l'Oriente, a non ruotare la testa inutilmente. Non senti Radio Londra? No, dicono, forse che ci lanciano le armi invece della carta igienica questa volta. Ma che? Dicono che il sole è arrabbiato con Santa Libera. Il sole. Il sole, il sole. E allora? Allora è inutile guardare. Da stamattina la luce brilla solo per se stessa. E adesso cosa facciamo? Boh, rimaniamo al buio. No, il giorno ha bisogno della luce. Radio Londra dice che il sole non ce la dà. Allora bisogna volare. Letture tratte da Per sempre partigiano di Pino Tripodi.